Ed eccoci di nuovo in diretta. Eccoci qua. Eccoci. Claudio. Ciao. Ciao Claudio e Carmelo anche dei Claudio Chieve. E Carmelo, che state provando? Stiamo provando, cioè tu mi avevi scritto, sai, se non dormi alle 11 facciamo la telefonata, ma noi da bravi giovani dentro stiamo a fare le prove. Bene, perché giovani dentro? Chi sono i greve? Perché fuori un chi po' meno. No, ma chi sono i greve? Perché è un po' l'oggetto e misterioso greve, del... No, un gruppo giovane di un anno di età, di elementi, di vari gruppi, di varie età, che mai non vogliamo così spoilerare le età, però varie età e vari gruppi abbiamo attraversato, magari alcuni di noi. Niente, però gruppo neonato punk hardcore, è questo. Al momento neonato va bene, un anno va bene, produzioni ne abbiamo una. Inedito, esclusiva per Radio Onda Rossa, voi ne avete una, ce l'hai? Sì, arrivata, è pronta, sì, la manderemo a fine della chiacchierata. Esclusiva allora. Va bene. Esclusiva, la primissima volta per Radio Onda Rossa. Per Radio Onda Rossa e per la serata per il forte, dai. E in questo anno però avete girato un pochino? Ma guarda, abbiamo suonato a Roma abbastanza, insomma, nel giro punk abbiamo fatto un po' di concerti, abbiamo registrato un EP di 6 pezzi di cui tu hai il primo inedito. Benissimo. Tutta la vita dentro un bar. Sì. E questo, abbiamo suonato negli spazi anche a sostegno di situazioni a cui tenevamo, a cui anche questa. Ti ringrazio anche di averci voluto parlare in questo frangente, grazie anche ai Nofu di esistere proprio come persone che sono cari amici, nonché la metà membri di un collettivo importantissimo per me, di cui faccio parte, e quindi per noi sì. Svelaci il nome del collettivo, se è possibile. Svelaci sia il nome quello che è passato sia quello che è presente. Dicevo, svelaci il nome del collettivo, se vuoi. Il collettivo non necessariamente superficiale, NNS. Beh, allora, se volete venire, domani facciamo una bellissima iniziativa al Benching Occupato con concerti punk, rap, psychedelic, stoner, tante belle delizie musicali. Quindi vi abbiamo ospitato. Pure lo spottino te l'ho cacciato. Dai. Sì, sì, sì. No, vi abbiamo ospitato, tra l'altro, no? Sì, ci avete ospitato sì, quando abbiamo fatto il Tilt Fest a ottobre, sì. Che è anche andato molto bene. Anzi, direi di compagni anarchici, prigionieri, che tra l'altro insomma stanno passando un periodo decisamente difficile, a cui va anzi l'augurio di libertà per tutti, e in particolare per questi casi più recenti in cui... Sì. Ci sono molte difficoltà. Sì. È questo, insomma. Rinnoviamo la vicinanza, insomma. Grazie, sì, e per forza. Tra l'altro questo non può che essere, non può che venire così spontaneo, un invito per una seconda puntata per quanto riguarda. Sì, assolutamente. Il collettivo. Assolutamente, al più presto. Per sapere. Ho visto, vi siete sentiti 5 minuti fa. Sì, quindi per sapere come in realtà si stanno muovendo le cose, quali sono le evoluzioni attuali e future. Dai, abbiamo così combinato sì, già un'altra 25 o'clock al volo in diretta. Alla grande. Assolutamente. I greve comunque super felici di supportare questa situazione di sostegno della radio, super presi bene ovviamente di suonare Quechina, che per alcuni di noi sono compagni di una vita, di percorsi e di robe passate, però per ognuno di noi rappresenta qualcosa, sia suonare in quel tipo di situazione con quei gruppi e in quel posto, per ognuno di noi significa qualcosa, anche forse differente certo, ognuno di noi, ma per noi è importante sicuramente, siamo contenti. Come dire, la coerenza è una via contorta, però basta non perdere, insomma, forse sì, Ghina proprio ci daranno almeno il loro suggerimento su quella che è stata la loro forma di coerenza. Va bene, quindi per chi è un... grazie davvero per questo piccolo spazio. Va benissimo, dai, invece grazie, ne faremo uno più grande in futuro, appunto. Assolutamente, assolutamente. Stiamo cercando anche i Bomb Machine, che invece si distaccheranno un po' dai suoi. Arrivano? Della serata, stanno provando pure loro in mezzo alla campagna, perché sai che loro vengono dal profondo dalla profonda provincia, quindi fanno bene, fanno bene. Video, in questo momento io sto a Regina Margherita, capirai. Quindi Sergio stava a Osta, io ho detto guarda qua si sta letteralmente, poi in radio di più perché abbiamo tutte le strumentazioni. Credo, guarda, mi avrebbe fatto anche piacere venirti a trovare di presenza stasera, però stiamo qua a provare, anzi andiamo a fare l'ultima scaletta adesso. Benissimo, dai, che così dai, poi vi vediamo in grande lustro e spolvero al Forte Prenestino venerdì prossimo. Grazie. Dai Claudio, grazie a te, a presto, ci vediamo. Ciao Carmelo, ciao. Ciao.